storia e la memoria di Dino Pesole. Alle prime luci dell'alba del 9 settembre del 1943, all'indomani dell'armistizio firmato con gli anglo-americani, la nave ammiraglia corazzata Roma lascia il porto della Spezia insieme a un'imponente formazione navale. A bordo ci sono oltre 2.000 uomini. L'armistizio impone il trasferimento delle navi italiane in porti controllati dagli alleati. Mentre la flotta procede in mare aperto, viene avvistato uno stormo di aerei tedeschi. Una prima bomba cade in mare. Pochi minuti dopo, la corazzata Roma viene colpita in pieno e comincia a sbandare. Una seconda bomba e si sente un boato prolungato. In pochi secondi è l'inferno. Dal ponte torce umane si gettano in acqua prima che la nave li capovolga. Tra le 1.393 vittime di quel drammatico pomeriggio di settembre c'è anche l'ammiraglio Carlo Bergamini, l'ufficiale più elevato in grado di tutte le forze armate caduto in combattimento. Ora la storia di quel disastro ci viene riproposta grazie a un libro dal titolo La tragica fine della corazzata Roma, scritto da Riccardo Mattoli, il nipote di Franco. Per la prima volta viene pubblicato il diario del 23enne sottotenente di vascello Franco Mattoli, uno dei pochi superstiti del bombardamento compiuto dagli aerei tedeschi. Viene narrata l'atmosfera e lo spirito che aleggiava a bordo della nave poco prima della partenza per l'ultima missione, ma anche i dettagli della navigazione e la drammatica descrizione degli effetti causati dalle bombe. Oltre al salvataggio dei naufraghi ad opera del caccia torpediniere mitragliere e dell'incrociatore Attilio Regolo. Franco Mattoli fu ammesso nell'Accademia Navale di Livorno nel 1940, risultando ai vertici tra gli allievi del suo corso. Per questo fu assegnato alla Corazzata Roma, che vide nascere da aspirante guardia marina quando era ormeggiata a Trieste durante i lavori di costruzione, e da sottotenente di vascello ne visse, il 9 settembre 1943, la tragica fine. Venne decorato con la croce di guerra al valor militare e gli venne conferita l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana per le sue benemerenze militari. Si laureò in ingegneria meccanica presso il Politecnico di Milano. La tragica fine della corazzata Roma venne scritta durante il periodo iniziale dell'internamento, dal 26 settembre al 30 ottobre 1943, ad appena 17 giorni dall'affondamento. Una testimonianza molto importante per comprendere a fondo quel che accadde dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943. Franco Mattoli si salvò, ma l'intera vicenda gli procurò una profonda ferita nell'animo e nello spirito, che neanche lo scorrere del tempo fu capace di lenire. Si limitò all'essenziale quando fu interpellato dalle autorità per rendere la propria testimonianza. Poi un lungo silenzio prese il sopravvento e per oltre 70 anni il suo diario è rimasto sconosciuto. Allora, buonasera Riccardo Mattoli e benvenuto. Grazie a voi, buonasera. Ricordiamo che lei ha pubblicato anche una biografia di Agostino Mattoli, che era il suo bisnonno, che fu deputato al Parlamento e medico del Presidente del Consiglio Giovanni Giolitti. Bene, ci racconti un po' cosa emerge da questo diario. Da questo diario emerge purtroppo un grande dolore, per quanto è successo, per una vicenda storica al di sopra di quelle persone, di quei militari che erano a bordo e che servivano fedelmente il re e la patria con il giuramento prestato. Quindi loro erano veramente in balia di ordini che dovevano venire dall'alto e che purtroppo non sono mai stati chiari. Certo. Beh, infatti il tutto va contestualizzato, perché dobbiamo ricordare che questo drammatico episodio avviene all'indomani dell'armistizio, quando le forze armate restano drammaticamente senza guida, senza ordini. Ma ecco, la domanda è, pur all'interno di questo contesto così confuso, così drammatico, era un disastro che si poteva evitare? Guardi, questo disastro probabilmente poteva essere evitato col senno di poi, se ci fosse stato magari una collaborazione di superaereo, ovvero le nostre navi non avevano assolutamente un servizio aereo che li potesse scortare verso la Maddalena, dove erano inizialmente, doveva essere quella la loro meta. Poi successivamente, quando la Maddalena vengono a scoprire che purtroppo è stata occupata dai tedeschi, E l'ordine praticamente fu quello di dirigersi verso Bona in Algeria e quindi verso Malta. E purtroppo non ci fu la collaborazione da parte dell'aeronautica e quindi furono in balia della rappresaglia tedesca, che quindi praticamente li colpì senza alcun problema con queste bombe radiotelecomandate, che sono una specie di nuove bombe intelligenti di oggi, con le quali loro poi mirarono esattamente, esclusivamente a Roma, perché colpirono la nave dell'ammiraglio Bergamini, che istava la bandiera con l'insegna ammiraglia, con la bandierina blu, con le tre stelle gialle, perché in effetti, se noi pensiamo bene, le navi dovevano invece issare il pennello con il colore nero in segno di resa, così aveva previsto l'armistizio, le clausole dell'armistizio. Purtroppo le clausole dell'armistizio vennero sicuramente taciute, l'ammiraglio Bergamini non venne messo a conoscenza di questa clausola, perché probabilmente forse avrebbe preferito che le navi si autoaffondassero piuttosto che consegnarsi agli alleati, e quindi questa è purtroppo la realtà. Certo, ma sicuramente lo diciamo ai nostri ascoltatori, uno degli aspetti anche più interessanti del suo libro è che nella ricostruzione di quelle drammatiche ore emerge poi anche la figura di questo giovane, giovanissimo sottotenente, che era Franco Mattoli, che emerge tutta la sua anche angoscia, il sentimento che visse in quelle drammatiche ore. Intanto, come riuscì a sopravvivere? Riuscì a sopravvivere perché lui capì che una volta che la nave aveva l'acqua aveva sommerso il Trencarino, praticamente non c'era più speranza affinché la nave potesse rimanere a galla, perché era convincimento di tutti che la Roma fosse la nave inaffondabile. La nave non aveva mai navigato in navigazione di guerra, quella era la prima missione di guerra, e quindi lui capì, una volta che l'acqua aveva superato il Trencarino, che non c'era altra speranza che buttarsi a mare. Quindi lui diede l'ordine anche ai suoi colleghi di buttarsi in mare per salvarsi. Però ovviamente i marinai, non avendo più alcuna guida, perché ormai il comando era stato completamente dilaniato, praticamente molti marinai morirono perché rimasero a bordo fino a che la nave si capovolse, e quindi col capovolgimento portò a morire praticamente tutti i marinai che rimasero lì a bordo. Questa è veramente una tragedia che ha segnato tutte le famiglie d'Italia. Ha segnato tutte le famiglie, ha segnato la storia della Marina, la storia anche degli eventi subito dopo l'armistizio dell'8 settembre. Ecco, cosa rappresenta dal punto di vista dei simboli, se vogliamo? Ora abbiamo parlato dell'enorme costo in termini di vite umane, ma dal punto di vista dei simboli, cosa rappresenta l'affondamento di una nave ammiraglia, di un pezzo da 90 della nostra squadra navale? Sicuramente la Roma era il simbolo della patria, e quindi con l'affondamento della Roma affondava praticamente, era come se andava a morire la nazione, perché il lutto che ha colpito i marinai, le sofferenze che hanno patito coloro che sono sopravvissuti e che non ne hanno mai menzionato per decenni, perché il diario del sottotenente di Fascello Franco Mattoli non è stato mai pubblicato, non ne ha mai menzionato a nessuno, è perché praticamente non si poteva far conoscere, non se la sentivano di far conoscere la realtà dei fatti che sono accaduti. E quindi è una testimonianza inedita che veramente sarà interessante per gli storici approfondire, perché veramente ci chiarisce magari molti aspetti, molti dubbi che fino ad oggi erano rimasti così nell'incertezza, perché gli unici due libri che sono stati scritti e pubblicati da altri ufficiali che erano sopravvissuti sono il marchese tenente di Vascello Agostino Incisa della Rocchetta, che pubblicò un suo libro nel 1978, L'ultima missione della corazzata Roma, e poi un altro libro che è stato pubblicato dal Guardia Marina, allora Arturo Catalano Gonzaga di Cirella, per l'onore di Savoia, che a decenni di distanza ripercorrono quelli che sono i loro ricordi, le testimonianze, però ecco, un diario scritto esattamente 17 giorni dopo l'accaduto, dopo l'affondamento della nave Roma, non c'è mai stato e non si sapeva che esistesse, quindi è veramente un documento unico, interessantissimo per tutti gli interessati, gli appassionati, gli storici della nostra Marina. Ecco, e per questo noi ne consigliamo senz'altro la lettura ai nostri ascoltatori. Ripetiamo: La tragica fine della corazzata Roma, scritta da Riccardo Mattoli per Gangemi. Grazie ancora e buona serata. Grazie, buonasera.